noi crediamo che sia proprio importante dare un segnale positivo in questo momento. Credo che la problematica sia sotto gli occhi di tutti e credo che vadano date delle risposte, spero, intelligenti. E sono momenti estremamente difficili, è una cosa che veramente sta colpendo in maniera molto importante, in primo luogo in questo caso la comunità cinese, perché è coinvolta direttamente da questo problema, e credo che sia importantissimo per noi dare un segnale di solidarietà e di presenza rispetto a questa comunità che è molto rappresentata nella nostra città. Avete un po' il polso della situazione bolognese sulle conseguenze che appunto questa psicosi sta producendo in termini economici? Ma i dati sono molto macchia di leopardo, quindi ci sono alcune attività che segnalano una presenza continua, altre attività che segnalano delle problematiche molto forti, e quindi non c'è un dato preciso su cui analizzare. C'è sicuramente una sensazione diffusa che si sta creando, che è una sensazione di diffidenza. Noi vogliamo lavorare su questo, non ci può essere. Tra l'altro il senso è anche quello di fare una corretta informazione, perché nel consumare cibo nella cucina cinese non c'è alcun rischio di contagio, questo forse va ribadito. Assolutamente, sono alcune cose che probabilmente c'è poca comunicazione, facciamo fatica a raccontare, e diciamo che prendere come riferimento il fatto di quello che sta succedendo per non andare in un'attività cinese è estremamente penalizzante, chiamiamo così. Credo che l'informazione sia fondamentale e credo che ci sia la totale tranquillità nel poter frequentare attività cinesi. All'iniziativa di oggi c'è appunto un operatore economico che fa parte della presidenza di Confesercenti Bologna, Luca Chiù. Volevo chiedere se appunto a Bologna, per quanto riguarda il vostro settore, la componente cinese è rilevante. Assolutamente, come tutte le componenti che stanno crescendo negli anni, la città è cambiata e quindi è giustamente rappresentata all'interno di quelle che sono le varie tipologie di attività della città. Tra l'altro, come sappiamo, in maniera particolare nella ristorazione e nell'intrattenimento la comunità cinese ha fatto molti investimenti, quindi sicuramente è rappresentata e vogliamo che in futuro siano più rappresentate possibili tutte le comunità. Oggi ci saranno anche l'assessore Aitini e il sindaco Merola. Che ruolo hanno le istituzioni in una situazione come questa? Ma le istituzioni secondo me hanno un ruolo molto molto importante, perché hanno un esempio, un'immagine. Cioè, noi stiamo leggendo tutta una serie di cose che stanno succedendo quotidianamente in altre città, in altre situazioni. Si è creata questa situazione di diffidenza, di paura senza ragione, e noi crediamo che l'immagine di quello che è l'istituzione sia molto importante per far passare segnali positivi. Che messaggio vorrebbe lanciare le ascoltatrici e gli ascoltatori di fronte appunto a questa situazione che si è prodotta? Potremmo dire che in tutto ciò che è alimentazione, cibo, il piacere di uscire, di stare insieme, non ha minimamente senso porsi questi problemi.